La ragione abbiamo scelto di manifestare perché l'amministrazione ancora non ha dato risposta alle nostre richieste relativamente alle intenzioni o meno di applicare il decreto della Madia e quindi stabilizzare la maggior parte dei precari che sono in Ateneo. Ancora non sappiamo quale sia l'indirizzo dell'Ateneo in questo senso e quindi vogliamo chiedere proprio davanti al Senato e in prima persona al Rettore quali sono le intenzioni della nostra amministrazione in questo senso. In realtà, in una prima fase, l'università ha temporeggiato in attesa dei documenti ufficiali che però adesso ci sono. Esatto, questi documenti ufficiali erano la circolare della funzione pubblica, che era attesa per comprendere come ci si potesse muovere nell'ambito dell'applicazione del decreto legge. La circolare della funzione pubblica è stata pubblicata il 24 novembre e da allora regna e vige il più assoluto silenzio. Quindi noi che siamo il comitato dei precari, quindi un comitato autonomo e indipendente, abbiamo pensato di muovere un po' le acque perché non ci sembra che nessuno stia facendo il nostro interesse. Quanti sono i precari che avrebbero diritto ad essere assunti? Questo è un domandone perché noi per i numeri siamo certi che siano almeno 86 i precari relativi ai tecnici amministrativi, però poi non abbiamo potuto ancora contare perché non abbiamo questi numeri quanti siano anche i precari della ricerca, quindi assegnisti, RTD e co. Questo non sappiamo il numero esatto quale sia. Però, insomma, questi 86 hanno tutti i requisiti così come previsto dal decreto. Avremmo contato che potrebbero avere questi requisiti. Poi la questione è abbastanza complessa anche riuscire a capire quali esattamente siano i requisiti e se effettivamente siamo dentro a questi. È una questione che ha bisogno sicuramente di uno studio approfondito, però da quello che noi sappiamo sembrerebbe che siano 47 attualmente i tempi determinati che prestano attualmente servizi in Unipo che potrebbero essere assunti rientrando nella Madia e 39 gli esterni o ex tempi determinati che sono già cessati invece, cioè che sono già a casa senza lavoro e potrebbero essere ripescati. Ma la sensazione è che l'università non voglia assumerli oppure sta temporeggiando perché non lo mette tra le sue priorità? No, questa sensazione è altalena a seconda delle situazioni, quindi abbiamo anche avuto la sensazione che un po' l'università si schermasse dietro al fatto di avere già applicato il piano assunzionale dal 2016 assumendo una serie di precari e con questo, cioè che il piano assunzionale fosse usato un po' come uno scudo rispetto adesso all'attuazione imminente della Madia, poiché in effetti il nostro Ateneo diciamo, è stato virtuoso con l'attuazione di questo piano, con l'assunzione di 122 circa precari, diciamo senza un intervento da parte del governo, ma contando unicamente sull'utilizzo dei punti organico. Però non vorremmo che il fatto di avere messo in pratica questo piano assunzionale negli anni passati sia o possa essere considerato come un freno alla urgenza che comunque risiede ancora di utilizzare la Madia per assumere quelli che sono rimasti fuori dal piano assunzionale. Le mansioni che svolgono i precari, come dire, non sono marginali, riguardano il funzionamento quotidiano dell'università? Molto spesso le funzioni dei precari sono proprio funzioni di tipo organico, quindi sono all'interno delle segreterie, sono negli sportelli al pubblico. Non si tratta sicuramente di mansioni relative, e parliamo sempre di tecnici amministrativi, relative a delle funzioni a progetto. Diciamo che la progettualità è un concetto abbastanza lontano da quello che è il lavoro di questi tecnici ed è per questo che loro, dopo soprattutto un'anzianità di servizio dai 3 anni in su, chiedono di essere stabilizzati, giustamente direi. Quindi, insomma, cercherete di farvi incontrare dal Rettore e dal Senato. Cosa chiederete? Quello che chiederemo è di avere tutte le informazioni che ci servono per capire in che situazione stiamo navigando e quindi sicuramente chiederemo che l'università possa esprimere quale sia il suo indirizzo in merito all'applicazione o meno della Madia, perché noi vediamo la Madia come un'opportunità che non debba essere persa per dare un posto di lavoro a lavoratori che hanno già prestato il loro servizio appunto in Ateneo e di cui siamo certi che l'Ateneo abbia bisogno proprio anche in virtù del fatto del turnover che c'è stato negli ultimi anni, per cui in realtà si è registrata, nonostante le assunzioni del piano assunzionale negli anni passati, si è registrata una diminuzione del personale, quindi c'è sicuramente un'emergenza di personale all'interno dell'Ateneo.